GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Mi sono fatto un regalo, a Natale il tram ripartirà con turisti e cittadini a bordo. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che rientra soddisfatto dalla trasferta romana, dove ha trovato un accordo su tempi e modi per far ripartire il tram di Opicina. Le cose da aggiustare sono solo sciocchezze, questa volta ci siamo, ha dichiarato. Aspettando la pioggia, Moggio Udinese si guarda in cielo e si spera nell'arrivo delle nubi per risolvere definitivamente il vasto incendio che per giorni ha interessato il Monte Cimadoro. L'impiego massiccio di aerei Canadair ed elicotteri sta comunque riuscendo a contenerlo e a mantenerlo circoscritto. La scuola media Svevo di Trieste sarà oggetto di interventi per la sostituzione degli infissi con modelli fonoassorbenti, ciò nell'ambito del previsto potenziamento della rete ferroviaria tra Servola ed Aquilinia al servizio del porto. Il progetto è stato approvato stamattina all'unanimità dalla sesta commissione consiliare. Gli interventi saranno eseguiti comunque rispettando il calendario scolastico. Nuovo programma regionale di incentivi per il rinnovamento delle stufe a legna con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria. Sarà incentivata la dismissione dei vecchi generatori di calore e l'acquisto di nuovi. Addio a Massimo Frizzi, voce e filosofo del celebre trio musicale Frizzi-Comini-Tonazzi. Il ricordo di Sandro Comini che con lui ha condiviso un'avventura lunga 50 anni. Dalla cooperativa del Lago, fondata 100 anni fa, a una nuova moderna cooperativa che a Pordenone, partendo da quella storia, oggi sviluppa l'economia circolare e sostenibile e aiuta donne in difficoltà. È la Copcar Post che produce borse, abiti e altro utilizzando scarti industriali tessili. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Larazzani e Antonio Cagliazza. Soddisfazione a Trieste per il nuovo cronoprogramma dei lavori al tram di Opicina che prevedono il ritorno in servizio della Trenovia entro la fine dell'anno. Ieri a Roma un incontro fra il sindaco Di Piazza e i vertici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture. Sorridente e positivo, il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ci accoglie nel suo ufficio ben felice di parlare delle sue 20 ore romane di ieri, in cui giura di aver portato a casa il via libera a far ripartire dopo 8 anni di stop il tram di Opicina, pronto a rivolgersi alla procura per danno d'immagine contro ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, che ha ritardato, secondo il sindaco, la ripartenza di un servizio che da tempo era ormai pronto, tanto da portarlo a minacciare la scorsa settimana di volerlo far andare su e giù da Trieste anche vuoto. Da qui l'invito di ANSFISA a Roma nella giornata di ieri per definire ciò che manca e impegnarsi reciprocamente a partire. Sono molto soddisfatto, pensavo di trovare un muro ieri, invece ho trovato un grande abbraccio a Roma per quanto riguarda il tram. Sai, 8 anni con sto tram non ne posso più. Poi era un demerito mio, era come se io portassi avanti questo blocco. Invece ieri l'abbiamo sbloccato, mi sono fatto un regalo, probabilmente per Natale mi sono fatto un regalo e ripartirà il tram. Eppure era partito negativo e soprattutto pronto ad andare in procura, perché? Ho detto basta, perché non ne potevo più. Si parlava di un millimetro, ma un millimetro va bene sui binari naturalmente, ma un millimetro va bene sul treno che corre a 260 km all'ora, ma non per la Trenovia di Opicina che va su a 5-10 km all'ora, capisci? Quindi cosa manca per partire entro Natale? Le ganasce e il rifacimento dei 10 scambi. Un lungo lavoro o no? Una stupidaggine. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli, Venezia Giulia. È sotto controllo l'incendio sul Monte Cimadors nel territorio di Moggio Udinese. Ieri sera e anche in mattinata hanno operato Canadair, dei vigili del fuoco ed elicotteri della protezione civile al fine di impedire il divampare di nuovi focolai. Flavio Gamberini, il direttore delle operazioni di spegnimento del Corpo Forestale Regionale, oggi si è trasferito in quota nella frazione di Monticello, di fronte alla linea di fuoco che si trova sull'altro versante. In sottofondo gli elicotteri della Protezione Civile Regionale operativi già da questa mattina. Gamberini, qual è la situazione? La situazione la stiamo tenendo sotto controllo. Sta evolvendo, è comunque preoccupante, ma stiamo cercando di contenere le fiamme entro della linea preferenziale lungo confini naturali in attesa della tanto sperata pioggia che forse arriverà domani. In attesa della pioggia domani circa 20 mm, si fa ancora affidamento su Canadair ed elicotteri. stanno facendo un lavoro eccezionale, ci sono 3 elicotteri della Protezione Civile, 2 Canadair della flotta statale, dei Vigili del Fuoco, e stanno lavorando per contenere le fiamme. E proprio dei Canadair si deve dire che hanno avuto dei problemi, o meglio delle opportunità di carico tra il mare di fronte a Grado, il lago dei Tre Comuni e un lago in Austria. Sì, certo, dipende dalle condizioni del vento. Quando le condizioni lo permettono, pescano nel lago di Cavazzo, che è il posto più vicino, più favorevole. Altrimenti ci sono degli accordi internazionali, vanno a pescare nel lago di Weißensee in Austria. Se le condizioni non lo permettono nemmeno lì, devono andare fino al mare. Quanti uomini della forestale, della protezione civile, volontari impegnati? In questi giorni c'è stata una rotazione massiccia, dai primi giorni si è fatto uso massiccio di persone, fino ad oggi sono ruotate almeno 100 persone per lo spegnimento, il contenimento, la logistica e il rifornimento. Armando Mucchino da Monticello di Moggio Udinese, TGR Friuli Venezia Giulia. E allora vediamo subito le previsioni del tempo. Oggi pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla zona montana si avrà un aumento delle nubi con possibili rovesci o temporali sparsi, che non sono esclusi anche sulla fascia orientale al confine con la Slovenia. Soffieranno venti a regime di brezza, ancora caldo, con temperature sopra la media del periodo. Al momento il cielo è sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna. Queste le temperature alle 11. A Trieste 28 gradi e mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi e 5 decimi. A Gorizia 31 gradi, a Udine 29 gradi e mezzo, a Pordenone 28 gradi e mezzo. A Tolmezzo 25 gradi, a Forni di Sopra 23 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 23, a Piancavallo 21 gradi e 5 decimi, a Sappada 18. Sul Monte Lussari 16 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 15 gradi, a Grado 28 gradi, a Lignano 27 gradi e mezzo. La temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi e mezzo. Il potenziamento della rete ferroviaria al servizio del porto di Trieste richiede interventi di mitigazione acustica diretta nella tratta tra Servola ed Aquilinia connessi a Campo Marzio. L'opera sarà finanziata e realizzata da Rete Ferroviaria Italiana. Se ne è discusso stamattina in sesta commissione consiliare del Comune di Trieste, che ha espresso parere positivo unanimemente. Il progetto è stato illustrato dall'assessore Michele Babuder. Non sono previste espropriazioni di aree private, ma si prevedono servitù per gli interventi di mitigazione acustica diretta sulle facciate degli immobili nei casi dove le sole barriere antirumore non garantiranno i limiti acustici previsti per legge. Nello specifico si provvederà alla sostituzione degli infissi esistenti con appositi infissi fonoassorbenti. Oggetto di tale intervento sarà la scuola secondaria di primo grado Svevo. Le tempistiche dell'intervento terranno conto delle necessità del calendario scolastico. Durante un controllo a Trieste, una pattuglia della stazione di Guardiella ha fermato 2 giovani che litigavano in via dell'Istria. Uno di loro, un 20enne triestino, è stato trovato in possesso di oltre 2 etti di chetamina. Successive perquisizioni nella sua abitazione hanno portato al sequestro di Xanax e benzodiazepine, senza prescrizione. Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto il giorno seguente. A 55 anni dallo sbarco dell'Apollo 11, la Luna continua a svelare i suoi segreti grazie ad una ricerca internazionale coordinata dal professor Michele Pipan dell'Università di Trieste. Lo studio ha identificato oltre 20 strutture legate a crateri sepolti e diverse stratificazioni inclinate della regolite lunare, analizzando i dati radar raccolti dalla missione cinese Chang'e 4. Questa ricerca ha rivelato che lo spessore della regolite varia fra i 5 e i 15 metri, contraddicendo ipotesi precedenti. Per la prima volta sono stati utilizzati algoritmi di deep learning che hanno permesso di esaminare i dati con una precisione senza precedenti. I risultati, pubblicati su Icarus, sono fondamentali per future missioni lunari e lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo, aprendo nuove prospettive per l'esplorazione spaziale. La Regione ha lanciato un nuovo programma di incentivi per il rinnovamento delle stufe a legna con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria. Il progetto prevede l'assegnazione di contributi per la dismissione dei vecchi generatori di calore a biomasse legnose e l'acquisto di nuovi impianti a maggiore efficienza o pompe di calore. Gli incentivi si inseriscono in un più ampio progetto di salvaguardia ambientale che mira a ridurre le emissioni di benzoapirene, un inquinante prodotto dalla combustione non ottimale del legno. Negli anni 2022 e 2023 è stato registrato il superamento del valore obiettivo di 1 nanogrammo per metro cubo in diverse aree del Friuli Venezia Giulia, in particolare nelle province di Pordenone e Udine, a causa dell'aumento dell'uso di legna come combustibile. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro. Tanti piccoli inquinamenti possono produrre appunto un inquinamento più grande, interveniamo con impianti di ultimissima generazione. Manteniamo la tradizione, specialmente nel Friuli, del Fogolar, ma anche in tutta la regione ovviamente, mandiamo in pensione le vecchie stufe, mantenendo la tradizione appunto dei caminetti e di questi tipi di impianti, danno un contributo molto importante per la loro sostituzione. La Regione ha stanziato inizialmente 3 milioni di euro per incentivare il rinnovo del parco stufe, una somma che, pur non sufficiente a coprire tutte le richieste, rappresenta un test per valutare l'efficacia dell'iniziativa. I contributi sono destinati alle persone fisiche proprietarie di immobili a uso residenziale situati nel territorio regionale. Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda e dovrà certificarne l'avvenuta dismissione del vecchio impianto. Il contributo previsto va dai 1.000 ai 4.000 euro. La piattaforma per la presentazione delle domande, sviluppata in collaborazione con INSIEL, sarà accessibile dal sito della Regione. Le domande per accedere ai contributi potranno essere presentate a partire dal 3 ottobre e potranno includere anche gli acquisti effettuati l'anno scorso. Andrea Marucic, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà installata nei prossimi giorni sul campanile di Trivoli, un comune nei pressi di Bergamo, la copia della statua di San Giorgio realizzata dall'artista di Nimis Paolo Comelli, un'opera alta 4 metri che ha richiesto un anno di lavoro. Nell'Officina delle Meraviglie di Fabio Comelli gli ultimi ritocchi della statua di San Giorgio, il capolavoro di rame forgiato dal maestro dei metalli di Nimis insieme a suo padre Ivano, noto per la sua abilità di forgiatore e che ha trasmesso al figlio la passione per questo mestiere. Stavano montando le ali del drago quando siamo entrati nel capannone. La copia della statua del 1920, alta 4 metri, ha richiesto un anno di lavoro, un'opera che andrà a sostituire quella del campanile della chiesa di Trivoli nei pressi di Bergamo, distrutta dal maltempo. Nel corso degli anni abbiamo sempre affrontato restauri e quindi abbiamo visto le varie tecniche costruttive che si sono susseguite negli anni anche per questo tipo di sculture. Finalmente ne abbiamo fatta una tutta nostra, insomma. Ecco. Quali sono state le difficoltà maggiori? Probabilmente quelle di riuscire a plasmare le lastre come volevamo. Comelli è figlio d'arte, ha frequentato la scuola di arti e mestieri del gioiello a Vicenza e nel 2011 ha restaurato l'angelo del castello di Udine. Al suo fianco c'è sempre papà Ivano che dice che l'allievo ha ormai già superato il maestro. Non si sa descriverla, quant'è la soddisfazione. Veramente una rarità avere un figlio poi che mi ha sorpassato in tutte le curve, è diventato veramente, veramente bravo. Una sfida a quattro mani, una soddisfazione importante. Guardarla dal basso col maestro Ivano e dire anche questo l'abbiamo fatto noi, è sicuramente un punto di orgoglio. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. È mancato ieri a 72 anni Massimo Frizzi, che assieme a Sandro Comini ed Enrico Tonazzi aveva dato vita 50 anni fa al celebre trio musicale udinese. Comini ci ha raccontato la nascita del gruppo e il ruolo che al suo interno aveva Massimo Frizzi. Con Massimo Frizzi ci siamo conosciuti direi da ragazzi, perché eravamo al liceo assieme, al liceo classico Stellini qua a Udine, e già negli anni del ginnasio giocavamo a calcio tutti e due, quindi ci siamo conosciuti col calcio. Poi nel 71, quando ci siamo diplomati al liceo, ci siamo iscritti assieme ad architettura a Venezia. Già lì abbiamo iniziato a comporre io e lui i primi testi, le prime canzoni. E poi rientrando a Udine, io non conoscevo ancora Enrico Tonazzi, invece Massimo era amico, era anche lui allo Stellini, eravamo in sezioni diverse. E anche lui si è unito a noi due e abbiamo iniziato un po' la storia di Frizzi con i Tonazzi. Poi nella vita stessa abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto, senza fratture, senza problemi, perché Massimo aveva un carattere molto umano, anche ritengo anche abbastanza simile al mio. Massimo era uno che ascoltava molto. Qual è stato il suo ruolo nel trio? Diciamo, Enrico Tonazzi si definisce un po' il lavoratore, no? Il, come dire, quello più, ma ha scritto anche lui le sue canzoni, le sue cose. Abbiamo composto nei primi anni sempre assieme, poi via via col tempo abbiamo continuato a fare magari delle cose più singolarmente. Abbiamo scritto molte canzoni assieme, però Massimo era uno che poteva anche creare da solo e scrivere da solo delle cose di valore. Io ritengo che Frizzi con i Tonazzi siano esistiti proprio in virtù dell'apporto che ognuno di noi, per la sua personalità, diversità, è stato in grado di dare, e non è riproponibile. Senza uno dei tre non è più il trio. Ci mancherà molto Massimo, era una persona speciale. L'attualità, con una riflessione che riparte dalle origini, sarà la bussola del 25esimo Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, in programma dal 18 al 22 settembre. Un intervento del cardinale Gianfranco Ravasi sul tema In principio creazione ed ecologia inaugurerà il festival, siglando l'avvio del primo quarto di secolo della manifestazione promossa dalla Fondazione Pordenone Legge, presieduta da Michelangelo Agrusti, curata dal direttore artistico Gianmario Villalta con Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Imponenti i numeri presentati stamattina in una conferenza stampa: oltre 600 autrici e autori italiani e stranieri, protagonisti di 334 eventi in 43 sedi di incontro fra Pordenone e il resto del Friuli Venezia Giulia, con 60 anteprime editoriali. Per il Festival Nei Suoni dei Luoghi, l'evento Canti della Casa dei Viventi, opera melologo in 10 quadri per voci recitanti, mezzo soprano ed ensemble, con musiche di Carlo Galante e testi di Angelo Floramo, che racconta le storie di vita e di morte custodite nel piccolo cimitero ebraico di Val di Rosa, Nova Gorizia, luogo simbolo di questa terra di confine. Sul palco ci sarà la Go Borderless Orchestra per la direzione di Eddie Denadai. Assieme a loro la mezzo soprano Silvia Regazzo e le voci recitanti del piccolo teatro Città di Sacile. A Gorizia, nella sala storica Unione Ginnastica Goriziana, alle 21. Angelo Floramo, autore dei testi, ci ha spiegato perché la scelta del cimitero di Val di Rose e quali storie racconta. Prima di tutto perché è un cimitero spaccato da un confine. Un confine che per tanto tempo è rimasto un confine divisivo e in fin dei conti sussurra e suggerisce a secoli di distanza che la terra in realtà appartiene soltanto ai morti, che sono la nostra memoria, non appartiene a coloro che tracciano le linee confinali. E poi perché è davvero uno degli esempi più belli di cimiteri ebraici presenti in questa nostra terra che è fatta di tante intersezioni. Dico nostra terra perché ovviamente dobbiamo rifuggire dalla logica delle divisioni, dei muri, e credere ancora invece che all'interno di un cimitero ci possa essere tanta e tanta vita. Il gioco è stato quello di identificare una decina di lapidi, alcune di queste sono realmente presenti nella Bet Hachim, la casa dei viventi di Rosh Nadolina. Altre sono delle invenzioni, sono delle suggestioni. In una sorta di spoon river, coloro che lì continuano a vivere, come crede la religione ebraica, raccontano e narrano la loro storia, in un'alternanza tra un testo che è in narrativa e un melologo, cioè un testo che poi viene cantato con un accompagnamento musicale pregevolissimo. A Pordenone la cooperativa Carpos valorizza da oltre 20 anni il lavoro delle donne in difficoltà attraverso un laboratorio tessile che promuove l'economia circolare. Il Ridoprin Lab produce borse, vestiti e accessori utilizzando scarti industriali, offrendo nuove opportunità di inserimento lavorativo e creazioni sartoriali uniche. Karpos, ovvero frutto in greco, il frutto del proprio lavoro, quello che la cooperativa che opera a Pordenone valorizza da oltre 20 anni e da 3 con un laboratorio tessile che sviluppa un'economia circolare e sostenibile, ma soprattutto aiuta donne in difficoltà. Il Rido Primnen Lab ha sede a Torre di Pordenone e oggi una vetrina nel Salotto Buono della città, in corso Vittorio Emanuele, un progetto nato sulle orme di Don Giuseppe Lozer e delle donne del borgo che oltre 100 anni fa fondarono la cooperativa del lago. Dalla collaborazione con i servizi sociali per l'inserimento lavorativo di donne con fragilità alla produzione della sartoria con l'utilizzo di scarti industriali tessili, borse, vestiti ma anche portapranzi, portaborracce e astucci. Paola Marano, presidente cooperativa Karpos. Dare nuova opportunità lavorativa a persone in difficoltà, ma può essere anche un laboratorio di osservazione, quindi dove le persone vengono inserite e vengono osservate per capire la manualità, se possono stare in gruppo, quindi ci sono anche diversi aspetti. Attraverso questo laboratorio la cooperativa dà una nuova vita a donne in difficoltà e a prodotti che non sono più rifiuti, creazioni sartoriali uniche e per questo di valore. Se io faccio una borsa con un ritaglio non posso farne un'altra, ecco, quindi chi ha questo prodotto ha un prodotto unico solo per lei o solo per lui e porta con sé anche un valore sociale. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport nelle Paralimpiadi di Parigi, protagonista questa mattina Katia Aere con il ciclismo su strada paralimpico, prova cronometro individuale donne H45. La spilimberghese si è classificata al 7° posto a 3 minuti e 22 secondi dalla vincitrice, la statunitense Masters. Ancora nel paraciclismo esordirà nel pomeriggio il san danielese Federico Mestroni nella prova a cronometro sui 14 chilometri nella categoria H3. La partenza è prevista alle 15:30. Alle Paralimpiadi di Parigi, ieri pomeriggio nel tennis tavolo, 2 atleti regionali si erano qualificati per le semifinali del torneo in programma domani. Il triestino Matteo Parenzan aveva battuto il cileno Torres, numero 5 al mondo, per 3-7-0 e successo nei quarti di finale anche per Giada Rossi di Zoppola, opposta all'Argentina Garrone, sconfitta anch'essa in 3 set. Da Parigi il commento di Giada Rossi al microfono di Dario Di Gennaro di Rai Sport. Sono molto contenta perché dopo 8 anni dal podio di Rio, che però sul podio qua a Parigi, quindi motivo di grande soddisfazione, e adesso ci godiamo questa prima vittoria e pensiamo già alle prossime, alla prossima semifinale, aspettando l'avversaria e cercando di andare il più avanti possibile. Ha preso via da poco la prima tappa del 60° giro ciclistico della regione Friuli Venezia Giulia con i migliori talenti e le migliori squadre italiane e straniere della categoria Elite Under 23 e Continental, che si concluderà sabato 7 settembre. L'evento per il 7° anno consecutivo è organizzato dalla SD Libertas Ceresetto. Circa 400 le persone che si muovono all'interno dell'organizzazione, la partenza poco fa da Palazzolo dello Stella, l'arrivo a San Giorgio di Nogaro attorno alle 16:20 dopo 177 chilometri. 169 concorrenti con le maglie di 29 squadre. E adesso andate via. Voglio restare. E questa è la voce potente di Massimo Ranieri, uno dei grandi nomi della canzone italiana. Il suo nuovo show live, Tutti i sogni ancora in volo, fa tappa stasera ad Aquileia. Tra le tante canzoni in scaletta, oltre a Perdere l'amore che abbiamo in sottofondo, ci sarà anche il brano vincitore del premio della critica a Sanremo nel 2022, Lettera di là dal mare. Il pubblico potrà ascoltare poi anche bellissimi inediti scritti per Massimo Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, fra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri. Il concerto in Piazza Patriarcato alle 21. È in programma oggi la serata triestina del Festival Internazionale Vilenica. Lo scrittore Miljenko Jergovic, Croazia e Bosnia ed Erzegovina, e il premio Ince per giovani autori Monica Erceg, Croazia, converseranno con Irena Urbic e Martin Lisiak. Il saluto introduttivo verrà offerto da Paolo Rumiz. Nikla Petrushka Panizzon leggerà dei brani e delle poesie. In sloveno, croato e italiano, con servizio di interpretariato alle 17 al Caffè San Marco. Sono le 12.54 minuti e 35 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Tommaso Vinoni e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lara Zani e da Antonio Cajazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.